280. Tordi con le olive. I tordi e gli altri uccelli minuti in umido si possono fare come i piccioni numero 276, anzi ve li raccomando cucinati in quella maniera, che sono buonissimi. Le olive indolcite, state cioè in salamoia, si usano mettere intere col loro nocciolo quando i tordi sono a mezza cottura. Il nocciolo però è meglio levarlo. Con un temperino si fa della polpa un nastrino che avvolto a spirale sopra se stesso par che formi un'oliva intera. Una volta furono regalati 6 tordi a un signore, il quale, avendo in quei giorni la famiglia in campagna, pensò di mangiarseli arrostiti a una trattoria. Erano belli, freschi e grassi come i beccafichi, e però, stando in timore non glieli barattassero, li contrassegnò tagliando loro la lingua. I camerieri, entrati in sospetto, cominciarono ad esaminarli se segno alcuno apparisse, e guarda, guarda, aiutati dalla loro scaltrezza, lo ritrovarono. Per non la cedere a furberia, o forse perché con essi quel signore si mostrava soltanto largo in cintura, «Gliela vogliamo fare!» gridarono ad una voce, e tagliata la lingua a 6 tordi dei più magri che fossero in cucina, gli prepararono quelli, serbando i suoi per gli avventori che più premevano. Venuto l'amico con l'ansietà di fare in quel giorno un ghiotto mangiare, e vedutili secchi allampanati, cominciò a stralunare gli occhi, e voltandoli e rivoltandoli, fra sé diceva, «Io resto, ma che sono proprio i miei tordi questi?» Poi, riscontrato che la lingua mancava, tutto dolente, si dette a credere che avessero operata la metamorfosi lo spiedo e il fuoco. Agli avventori che capitarono dopo, la prima offerta che in aria di trionfo facevano quei camerieri era «Vuole ella oggi un bellissimo tordo?» E qui a raccontar la loro bella prodezza, come fu narrata a me da uno che li aveva mangiati.